pur sempre una scoperta, è pur sempre una scoperta, è pur sempre una scoperta. A fior di pelle avvampano gli sbotti, bruciando i nervi e le vene i loro fiotti. La zona rossa esplose in un secondo e fu davvero come deflagrasse un mondo. Oh, che esecrabile emozione, sentirsi vulcani in eruzione, incandescente come la lava che dalla bocca terrifica sfava. Ma che discesa gloriosa fa quel magma senza fermarsi mai, come una belva furiosa il suo inferno porta portando guai. Ci sono istanti che vivere è una merda, che vada poco poi è pur sempre una scoperta. Sono le volte che proprio non ce la fai più, che vorresti volar per davvero nel blu, dipinto di blu, per poterti sentire leggero come il cielo impassibile. Nessuna cosa al mondo sa come si disperda, in quegli istanti in cui vivere è una merda, che vada a fuoco poi è purtroppo cosa certa. Sono le volte che